fatemi salutare in greco, Iaxu Kalimera Seolus, cioè buongiorno a tutti. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Che per noi quest'anno l'obiettivo numero uno è quello di migliorare noi stessi. Per migliorare noi stessi i risultati si possono migliorare solo facendo una cosa, vincendo il campionato Coppa Italia e vincendo la Champions. Ora che la fiesta è andata, pace, amore, gioia infinita. Chiaramente siamo in piena attività, non mi addentro più di tanto perché voi sapete che di nomi attorno a noi ne sono state fatte tanti. Sappiamo che dobbiamo ancora completare la rosa e questo è il primo obiettivo che abbiamo in testa e che sicuramente dobbiamo farlo il più fretta possibile. Rendo a voi a questa vita pace, amore, gioia infinita. Molto contento, l'ho detto prima, io sono molto contento della squadra che è stata allestita. Normale dopo 4 anni giocatori, ripeto, come Terzi e come Pirlo, che hanno scelto una strada diversa, è lo stesso Vidal, non si può rimanere ancorati su delle cose che poi dopo vanno cambiate, su dei giocatori straordinari che hanno deciso di prendere un'altra strada. Pace, amore, gioia infinita. È stato lo Juventus Day e oggi ne parleremo. 800240024, così come parleremo, se volete, della Roma, perché ha appena finito di giocare a Melbourne con il Manchester City. C'era Romagnoli nella Roma, non c'era naturalmente Dzeko nel City. 2-2 al termine dei 90 minuti con i gol di Sterling, Pjanic, Ianco e pareggio di Ljajić a 3 minuti dalla fine dei tempi regolamentari. 7-6 complessivo, risultato finale. Kolarov ha sbagliato prima per il City e poi sono arrivati gli errori di Dumbia e di Keita per la Roma. Questo è quanto. La partita dell'Inter invece è appena cominciata, si gioca da un'altra parte del mondo in Cina con un altro avversario, il Bayern di Monaco. Poi vediamo come va a finire. Tra l'altro Pardo oggi non c'è perché è impegnato nel commento di questa partita. C'è invece Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Buongiorno mister. Buongiorno anche a voi. 800 24 00 24, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Allora, Allegri ieri ha parlato anche del modulo della nuova Juventus, che io vi dico, adesso vediamo chi arriva, ne parliamo, chi arriverà come nuovo numero 10, se Drexler, De Bruyne, che è una new entry che costa un sacco di quattrini, oppure Götze. Però Allegri ha parlato anche di quello che sarà il disegno tattico della Juventus nuova. Ma per quanto riguarda i sistemi di gioco, sono arrivati dei giocatori che sono andati a sostituire giocatori con caratteristiche diverse, quindi dovrò metterli tutti in condizioni per esprimersi al meglio. Abbiamo due sistemi di gioco consolidati, uno che ho ereditato e l'altro che abbiamo inserito l'anno scorso con buoni risultati. Quindi sotto questo punto di vista credo che non ci sia nessuna preoccupazione, poi che si giochi con i tre davanti, con 1+2, questo dipende sempre dalle caratteristiche dei giocatori. Quindi dalle caratteristiche dei giocatori, e la rosa non è ancora completata, anche se Marotta, che parla di Götze, ha detto che insomma dovrà essere completata al più presto. Götze rappresenta sicuramente questo profilo, però è un giocatore del Bayern Monaco a tutti gli effetti, per cui evidentemente noi non abbiamo avviato una trattativa concreta. Chiaramente nei nostri compiti, nella nostra attività, c'è quello anche di fare dei sondaggi, e quindi posso solo limitarmi a questa analisi, considerando anche che i rapporti con il Bayern Monaco sono buoni. Quindi nel momento in cui la società o il giocatore manifestassero l'intenzione di di vivere un'esperienza diversa, chiaramente siamo i primi a cercare un confronto più concreto per vedere e valutare se ci saranno le opportunità per arrivare appunto a una conclusione. Vabbè, a vedere valutare, intanto Paratici ci ha fatto un tour in Germania chiedendo di Drexler e gli hanno chiesto 35 milioni 5 di ingaggio per il giocatore. De Bruyne ha una quotazione pazzesca, 65 milioni di euro, che mi sembra sinceramente una follia. Goetze guadagna molto, cioè 7 milioni l'anno. Se si vuole un tedesco, un mercato tedesco un po' caruccio, secondo me. Dai piani alti di Sky, Federico Ferri. Ciao Fede. Buongiorno, ciao. Evidentemente Paratici è un fedelissimo di Sky, perché avrà visto molto la Bundesliga l'anno prossimo e la rivedrà anche nei prossimi anni come la Liga e la Premier. Intanto tu hai Sky, comprato però... Del Piero, no? No, io no. Sky TV. Tu hai comprato Del Piero? Quanto l'hai pagato Del Piero? Cos'era? Quanto veniva il cartellino? No, io alleno, no, faccio un altro mestiere. Senti, ma Draxler è il giocatore giusto, oppure Goetze, oppure De Bruyne? Perché se la Juve sei intestardita sulla pista tedesca? Poi ti dico una cosa che penso, cioè il fatto che la Juventus l'anno prossimo non sarà così più debole rispetto a quella che abbiamo visto quest'anno, sarà più futuribile, avrà meno carisma e meno leadership in campo, ma questo è un discorso che facciamo dopo. Intanto, perché questo intestardirsi sul mercato tedesco? Hanno guardato troppo Sky? Sicuramente sì, però io penso per due motivi. Primo è che hanno, cioè, una sorta di casualità di giocatori con una caratteristica piuttosto simile che giocano in Bundesliga e che possono interessare in questo momento la Juventus, perché Allegri ha una tipologia di giocatore che tutto sommato è abbastanza adattabile, non è così radicale. Lì ci sono delle caratteristiche che possono accomunare l'uomo giusto per il ruolo che sostanzialmente è quello del trequartista, comunque del giocatore offensivo di fantasia che manca ad Allegri. L'altra cosa che dico è che io penso che la Juventus in questo momento, come club, come società, si trovi particolarmente bene a discutere con club con la mentalità come quelli della Bundesliga e con giocatori che sono abituati a stare in quell'ambiente, che ha molte affinità con quello che la Juventus vuole sviluppare nel suo calcio e nel suo club. Questo credo sia un particolare non proprio secondario. Sì, quindi queste le due ragioni. Allora, ci fermiamo per il traffico, poi approfondiamo questo discorso che ti ho fatto. Cioè, c'è chi mi scrive: quando lei dirà qualcosa contro la Juventus sarà sempre troppo tardi. Cosa devo dire contro la Juventus? Che sta facendo una rivoluzione, sta rifacendo una squadra, sta sfruttando il momento giusto per farlo. Forse sta facendo quella rivoluzione che l'Inter del triplete, per tante ragioni anche comprensibili, non ha voluto fare. Ha un vantaggio in questo momento non colmabile in campionato, quindi sul fronte interno ha spazio e tempo, sul fronte esterno, cioè quello della Champions League, dopo la finale raggiunta, lo vedremo e lo capiremo e magari ne parleremo insieme. 800 24 00 24. Traffico subito dopo con Federico Ferre. È sicuro? 100%? Tutti convocati. Convocati. Intanto ringrazio la Juventus di questa opportunità e per il resto la scelta è stata una scelta in un certo senso semplice, perché io sono contento di essere qua a giocarmela, nonostante la giovane età. Per me è la cosa che più volevo, quindi ripeto, sono contento di essere qua e ce la metterò tutta per ripagare la fiducia e ritagliarmi il più possibile i miei spazi. Questo era uno dei simboli della Nouvelle Vague juventina, presentato oggi, credo, Rugani. Federico Ferri, dunque, approfondiamo questo discorso. Anche se mi accusano di quando lei dirà qualcosa contro la Juventus, ci sto solo ragionando sopra e dico che ci sarà un gap di personalità, perché quella non si compra al supermercato, né quella di Pirlo e neanche al calciomercato, né quella di Pirlo, né quella di Tevez, né quella di Vidal. Però credo sia stato il momento giusto per operare questa rivoluzione. Sono d'accordissimo. Dico, sicuramente c'è un gap di personalità. Credo anche che ci possa essere qualche forse qualche eccesso in questa, rivoluzione, per dire, faccio un nome, conoscendo le vicende degli ultimi anni e non solo. Storari è un giocatore che non è così fondamentale, magari dal punto di vista in campo, anche se ha fatto sempre benissimo, però era un pilastro dal punto di vista dell'appoggio, dell'apporto ai suoi compagni nello spogliatoio, nella tenuta del gruppo. Forse queste rinunce sono un po' eccessive nell'ottica che spiegavi tu, però certamente parliamo del campo, delle cose che poi la Juve ha una base forte che si perpetua attraverso Marchisio, attraverso Chiellini, attraverso Buffon, attraverso questo gruppo di italiani, Bonucci, che è fortissimo. Perde il giocatore di grande personalità, avrà quel problema, ma si è assicurato un futuro. Cioè, se anche la Juventus, e non credo che accadrà, non dovesse vincere l'anno prossimo, sei garantita, secondo me, 4-5 anni di possibilità di leadership, che è ben diverso che sfruttare l'ultimo anno in cui puoi vincere con i vecchi. Certo. Cioè, è una prospettiva, secondo me, di grande intelligenza dal punto di vista della pianificazione. Certo, Fede, però bisogna avere la possibilità di farlo, e la Juventus aveva questa possibilità, perché sul fronte interno, lo dicevo prima, il gap è talmente ampio che consentiva alla Juventus, questo era il momento giusto per avviare la rivoluzione. E guardando quello che succede dietro, l'Inter ha speso molti soldi, si è rinforzata, il Milan sta cercando di spendere molti soldi e di rinforzarsi, il Napoli ha cambiato allenatore pelle, la Roma sta ancora provando a capire da che parte andare, cioè io dietro non vedo chi si sta avvicinando in maniera pericolosa. Ma sai, questo è vero, ti dico anche però che se facciamo ad esempio il paragone con la prima stagione di Conte, quella che veniva dopo il settimo posto, sì, con il Milan che sembrava nettamente dominante, probabilmente ci avessero detto in questo momento della stagione la Juventus può avvicinarsi così tanto, avremmo detto, io perlomeno avrei detto no. Sul valore degli avversari io ho dei dubbi come te, penso che non, però possa mancare poco per far scattare la scintilla a qualche squadra, e secondo me l'Inter ad esempio è una di queste. Però sono anche d'accordo nel dire che la Juventus è più forte. Ha fatto dei grandi acquisti, a mio parere, perché Dybala è un giocatore potenzialmente dirompente per il campionato italiano. Mandzukic lo voglio vedere, non so quanto sia adattabilissimo al gioco di Allegri, però certamente è un giocatore di spessore internazionale, uno di quelli che comunque in Europa ti servono. A me sembra una bella squadra, mi sembra che Allegri la stia per la prima volta, direi, anche dal punto di vista delle indicazioni di mercato, plasmando in modo determinante. Io non sono così convinto che quest'ultimo acquisto sia così determinante, però evidentemente invece Allegri pensa davvero che possa essere questo giocatore che gli fa cambiare il modo di intendere offensivamente il suo calcio. Però non sono d'accordo con te, l'idea di fare la rivoluzione quando si è in cima è l'idea vincente, sì. È comunque un'idea aziendale vincente. Sì, sono d'accordo, quella che dicevo prima, l'Inter del triplete non ha avuto il coraggio di avviare il giorno dopo, quando c'erano comunque diversi problemi, quando Mourinho era andato via, quando Benitez aveva detto quelle cose a bordo campo. Questo senza fare dei paragoni, stiamo facendo della storia, della cronaca, quindi non stiamo tanto per capirci, ma poi dite quello che volete, perché è giusto così. Non stiamo dicendo che l'Inter ha fatto il male, la Juventus è il bene, là sono stati cattivi, qua sono stati bravi, questo è chiaro. Non aveva vinto la Champions, non ha lo stesso forse legame con quel gruppo che ti aveva dato così tanto, quindi probabilmente non sono state prese altre decisioni. Quest'anno quella finale è parsa a molti, anche in società, una fine di un ciclo per molti giocatori. Sì, giocatori che hanno anche avuto l'intelligenza di prendere la decisione giusta, perché Pirlo, senza la sua intelligenza che lo ha spinto a fare quello, aveva il contratto e sarebbe rimasto. Però Pirlo ha capito che il calcio della Champions League a quel livello poteva non essere più sto calcio a livello fisico, non ha voluto subire la panchina, non ha voluto andare via quando era troppo tardi, e ha fatto quella scelta che poi secondo me è stata molto condivisa anche da Allegri, ma non per disstima, ma perché sapeva come sarebbe finita. È chiaro. Quindi ci vuole anche quello, magari l'Inter non ha avuto in quei giocatori in quel momento la stessa fortuna, diciamo. Sì, rispondiamo insieme a Mauro dalla provincia di Venezia, che è il primo ascoltatore di oggi. Mauro, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Buongiorno a tutti. Io sono un milanista molto molto tiepido e un po' sono quasi vedere la Juve come sta costruendo la squadra, cioè magari il Milan fosse avesse questo costrutto. E ricordiamoci di come è andato via Pirlo dal Milan e come è andato via qui. Dietro c'era un Marchesio, dietro ci sono, cioè, qui c'è, si vede che c'è una progettualità. Sì, però Mauro, non si dimentichi che prima di questa progettualità la Juventus ha buttato dalla finestra un sacco di quattrini comprando giocatori sbagliati e ci era messo un po' per trovare la formula chimica che funzionava, eh. Quindi questo sempre per la cronaca, questo sempre per la cronaca. Il Milan mi sembra si stia muovendo per provare a costruire qualcosa, ma non si fa in un giorno, e la stessa Juventus insegna, no Federico? Ah, sicuramente. Io penso che per quanto riguarda ad esempio il discorso dei tempi, c'è un sistema virtuoso portato secondo me nel mercato di quest'anno dalla Juventus, e che però viene imitato abbastanza da altre squadre. Vedo meno squadre con l'acqua alla gola, ce ne sono, però la pianificazione di quest'anno è stata certamente più convincente rispetto ad altri mercati. Si sta capendo che probabilmente è meglio non arrivare a risparmiare i 200.000 euro o prendere il giocatore con la busta da consegnare, anche se non sta più a lanciare dentro il gabbiotto del mercato all'ultima ora, ma si cerca di alzare una squadra di allenatori intorno al primo d'agosto che sia già credibile. E questo secondo me è una cosa che la Juventus ha fatto molto bene. Praticamente la squadra era già fatta, adesso ne manca uno, però la squadra era già fatta, se pensi ai Rugani, comunque sì, doveva sostituire un Bonna, giocatori che la Juventus ha preso in netto anticipo, quindi l'idea c'era già, ha potuto pianificare. Però se guardo anche il mercato del Milan, è un mercato più equilibrato rispetto alle altre stagioni, con una linea più definita, più logica. Io certamente penso che alla fine sul lavoro si vedrà, perché Mihajlovic e Mancini ad esempio potranno lavorare con una squadra che ha un senso. Campionato che sia più campionato rispetto a quelli degli anni passati. questo anch'io certamente Milan e Inter sono più credibili. La Roma, sulla Roma non mi pronuncio perché aspetto di vedere come sarà la sua faccia alla conclusione del mercato. Ma per forza. Il Napoli è una squadra molto interessante. E siamo tutti un po' più fiduciosi su un maggiore equilibrio in questa stagione. Fede, prima di salutarti voglio farti sentire due audio che non c'entrano né col Milan né con la Juventus né con l'Inter né con queste altre squadre. Uno c'entra con il Catania perché ha parlato Pulvirenti. Io in quel momento di difficoltà ho vicino a me Dell'Icardi, al quale io i discorsi erano tutti i giorni, no? Si analizzava la situazione, non si riusciva a trovare una via d'uscita. Mi viene proposto questo genere di cose, che con una somma si poteva ottenere qualche possibilità di poter ottenere qualche risultato. Come vedete voi, che se avete letto le intercettazioni, io sono molto molto dubbioso fin dall'inizio che ciò possa essere vero. Addirittura in due partite chiaramente io vengo truffato. Quindi metti in vendita a Catania, ho cercato di barare, ma Dell'Icardi ha truffato me. 800240024, se ne avete voglia, Federico. Lui ha truffato noi. Sì, questo è in dubbio, guarda. È condolo. Con noi ha truffato tutti quelli che continuano a credere che si possa fare sport in un altro modo. Non credo che sia incommentabile quello che ha detto. Ha rovinato Catania, ci vorranno anni per tirare su questa società. Non credo che si debba nemmeno stare a parlare e discutere di queste dichiarazioni. No, sono d'accordo con te. Poi che chiami in correità altri, per carità. Vabbè, ma sai, io come tutti come me, ma il comune mezzo gaudio è pieno di detti, possiamo tirarne fuori una decina, sì. No? Però vale a poco. 800240024, l'ultimo audio che ti faccio sentire è questo. This is the law 3/2026. Excuse me? Thank you very much. Sorry, this is starting, we're starting a press conference. Where is my security? Come on. Avrete visto le immagini? Ovviamente non lo capite, è solo una suggestione sonora. Quel comico inglese, non mi ricordo il nome, durante la conferenza stampa di Blatter entra e lo inonda di soldi fasulli, sempre di comicità si tratta. Gran cabaret. Questa è un po', questa fa, potrebbe fare un po' più sorridere, in assoluto no, perché comunque alla fine mi sembra che si parli di un altro tipo di corruzione, ma sempre di corruzione si tratti. L'aspetto forse positivo da questa vicenda, ma forse anche da quell'altra, perché credo che siamo arrivati in un punto che c'è voglia di positività, questa volta la vedo davvero diversa rispetto al passato, però sul fronte FIFA qualcosa si muoverà e si muoverà in modo diverso, quindi io da questo punto di vista credo che abbiamo toccato il fondo. Poi come per proseguire i luoghi comuni si può sempre scavare, però credo che questa volta in tanti hanno capito che abbiamo toccato il fondo e che non convenga più andare oltre, non convenga sotto tutti i punti di vista. Sì, 26 febbraio data fissata per la successione al soglio pontificio del calcio mondiale. Federico, ti ringrazio come sempre, sempre un piacere, grazie. Grazie a te Carlo. Ciao, ciao Federico Ferri. Allora, io vi aspetto ragazzi, 800 24 00 24, per parlare non solo di Juventus, ma anche questo argomento ci dava oggi lo spunto, per parlare della Roma che ha giocato, vi ricordo, ha perso ai rigori 7-6 risultato complessivo dopo aver pareggiato 2-2 con il Manchester City, con cui sta trattando, con cui sta parlando di ben altre cose, cioè dell'attaccante del futuro Dzeko. C'è il Manchester United che si sta pigliando tutto, cioè tutto il possibile, tutto quello che passa davanti al naso dello United se lo piglia. Ha preso Pedro dal Barcellona. Adesso vedo scritto da qualche parte che sono pronti a cacciare 100 milioni di euro per Müller dal Bayern di Monaco. Come la vedete questa? Poi dobbiamo, è chiaro che Juventus, la Roma stessa, la Lazio, speriamo, dovrà fare i conti con questi qui. 800 24 00 24, vi aspetto dopo la borsa. Ti invidio moltissimo, gente, perché so che stai trasmettendo da Formentera, sei lì con tutti i calciatori, tutte le veline scocciate. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Bene, state arrivando, 800 24 00 24, lo so che vi state riposando, lo so che siete sotto l'ombrellone, beati voi, però se ci fate compagnia e chiacchieriamo un po' di sport, male non ci fa, anche dalle rive di qualche mare o dalla cima di qualche montagna. Cosa mi dici di Cassano e del mercato Doriano? Scrive Mauro. Vediamo. Di Cassano e del mercato Doriano, vediamo, non sono ancora così convinto, non mi sono fatto ancora un'idea così chiara e penso che ci vorrà un po' di tempo. Gabriele, buongiorno, da Treviso, poi Gianfranco da Milano. Buongiorno Gabriele, dica. Buongiorno signor dottor Genta e complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo parlare del mercato dell'Inter, secondo me dell'avvicinamento dell'Inter verso le zone alte della classifica con questo mercato. Sono sempre stato scettico sui mercati dell'Inter negli ultimi anni e poi si sono visti i risultati, ma mi sembra che quest'anno sia stato fatto tutto con un po' di testa, mettendo quei giocatori che mancavano, soprattutto di personalità. Una cosa che mi dispiace però è il fatto che i nostri giovani del nostro vivaio, i vari Tancan, Longo, Camarà, vengono sempre messi in secondo piano, non so per quale logica, senza pensare a un futuro. Volevo sapere la sua su questo. Ma secondo lei il valore assoluto di questi giocatori quale può essere? Cioè... Non da primissima squadra, da grandi palcoscenici, però neanche, non sono sotto ai vari Kuzmanovic, ai vari Schelotto che abbiamo preso negli anni, secondo me. Dico buoni mani anche per fare panchina, comunque per poi crescere, no, ma ecco, non... no, su questo Gabriele mi permette, su questo non sono d'accordo, per fare panchina no, cioè allora se vogliono giocare se vogliono crescere devono giocare, non fare panchina, non allenarsi, devono giocare delle partite in campionati reali, in campionati dove si gioca con i vecchi lupi del calcio, dove ti devi cimentare, dove devi affrontare dinamiche diverse da quelle giovanili. Quindi io credo che i nostri giovani non debbano avere come obiettivo quello di finire nella squadra magari di Serie A per fare il 25esimo giocatore, allenarsi e non vedere mai il campo. Io credo invece che la strada giusta sia quella di cercare delle realtà solide o mediamente tali, che siano in Italia o all'estero, dove possano giocare. Se poi non sarà in Serie A, sarà in Serie B. Se non sarà in Serie B, sarà in quel disastro che è la Lega Pro, dove insomma ci sono un sacco di problemi, però ci sono anche, viva Dio, delle società serie. Se non sarà in Italia, sarà da un'altra parte. Quindi io, fossi un ragazzo con talento, con la voglia di fare calcio, cercherei chi mi aiuta a trovare una squadra che mi possa dare del campo, che non mi possa far scaldare una panchina. Se poi non sarà qui, sarà in Belgio, benissimo, vado in Belgio e là provo a dimostrare quello che valgo. Secondo me questo nel mondo attuale è il percorso da fare. Gianfranco, Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'ospitalità. Sono uno juventino e volevo solo ribadire il concetto che ha espresso anche lei. La Juventus, a mio giudizio, a parte i giocatori che vedremo all'opera, quindi saranno in grado di ripetere immediatamente i risultati della vecchia squadra, ma sta costruendo, da un punto di vista manageriale, un percorso molto forte, che è quello appunto di selezionare i giovani, come dice lei, prima in altre squadre, di lasciarle, di fare collaborazione con queste squadre, per vedere se hanno le caratteristiche poi per essere lanciati nelle grandi squadre come la Juventus a fare i campionati. Quindi c'è una forza dei giocatori, ma c'è una forza organizzativa che Marotta ha portato e che sta portando avanti con grande lucidità, e che permetterà, non potendo spendere i soldi che spendono le squadre straniere, comunque di mantenere degli ottimi livelli. Sì, sì. Io penso sia un quadro vincente della Juventus. Sì, ma questa è una provocazione, dica, se mi permette, come no, che gira. Ma i soldi dell'Inter e del Milan non è che sono sempre degli stessi presidenti e tornano indietro tramite dei giri un pochino particolari. Cioè, questo lei lo dice con malizia dopo i recenti affari che sono stati fatti tra squadre incrociate, dice per questo? No, nel senso che chiaramente quando si cominciano a intravedere fiduciarie, partite, cioè, società offshore, il dubbio è che i soldi siano sempre degli stessi presidenti che stanno tornando indietro in qualche altra maniera, ma non... delle teste di legno. Ecco, gliela butto. Ma butti il sasso nello stagno finché vuole. Io credo che ognuno stia usando i suoi. Il Milan sta vivendo una rivoluzione societaria che non è ancora completata, ma che andrà a completarsi. L'Inter l'ha già vissuta e sta facendo un eccellente mercato, quindi poi non penso ci siano questi giri perversi, anche se un giocatore viene dal Monaco, un altro va al Monaco, eccetera eccetera. Non penso proprio che ci siano questi discorsi di questo tipo, non voglio pensarlo almeno. Allora, facciamo un salto a Di Maro, vi faccio sentire Martens. No, stiamo allenando bene, siamo prepariamo per le partite, no, va bene. No, è un'altra cosa, ma è una cosa che penso che piaccia a tutti i giocatori. È un nuovo modulo, ma va bene. L'ho detto già, è un piacere per me perché mi piace giocare per questa squadra, e è un piacere, ma anche è buono perché i tifosi vogliono che io giochi per Napoli, e è anche un piacere per me. Dunque, questo era quello che secondo me è uno dei giocatori più forti del Napoli. Continuo a non capire perché volessero venderlo, o magari lo venderanno pure, per una quotazione che non era nemmeno troppo alta. Intanto è arrivato Allan, che faceva prima ad andare a piedi da Udine a Napoli, visto il tempo che ci è voluto. Arriverà anche Astori. La sua a Di Maro, c'è, cioè, Furio Fedele per il Corriere dello Sport. Ciao Furio. Ciao, buongiorno a tutti, ecco, sono qui. Ma è vero, sentivo anche Martens che insomma anche quelli che volevano scappare pure a piedi da Napoli adesso sono stati in qualche modo convinti, o comunque hanno avuto una buona impressione da questo nuovo, un po' strampalato e variegato allenatore. Ma una persona molto seria, Sarri, ha fatto una buona impressione a tutti, una persona umile, a 56 anni praticamente sta veramente toccando il cielo con un dito e finora ha lavorato molto intensamente, ha conquistato la fiducia di gran parte dei suoi giocatori e proprio quest'oggi alle ore 18 qui a Di Maro, al Carciato per l'esattezza, ci sarà il debutto del Napoli di Sarri contro una formazione trentina di promozione. Vedremo, è chiaro che non è facile il compito di Sarri, però ha lavorato molto intensamente soprattutto sulla fase difensiva. Del resto il Napoli di Benitez nel secondo e ultimo anno aveva incassato ben 54 gol in campionato. È un test importante anche perché è il debutto assoluto di Sarri, che arriva dalla gavetta. L'anno scorso ha portato l'Empoli in Serie A, è riuscito a mantenerla in Serie A e adesso vediamo cosa riuscirà a fare appunto col Napoli, una formazione che è sempre molto ambiziosa come del resto il suo presidente. Senti Furio, uso la tua esperienza perché tu hai vissuto l'epoca di Sacchi, esatto. È stato fatto questo parallelo, questo paragone da una parte e dall'altra, non solo per l'iniziale del breve cognome. Metodi strani, dal drone che vola sul campo alla macchina spara palloni, l'altra volta c'era non la gabbia di Orrico ma la sabbia, c'erano altre trovate di Arrigo. Esiste, è un parallelo che può reggere questo o è solo una suggestione un po' romanzesca? Beh, c'è una differenza di età, Sacchi aveva 40 anni, Sarri ne ha 56 e soprattutto Sacchi aveva ben altra squadra, i tre olandesi da soli rappresentavano almeno il 70% del potenziale di quel Milan, senza togliere nulla ovviamente agli italiani. Mi riferisco ovviamente a Van Basten, Gullit e Rijkaard. Rijkaard che è arrivato dopo. Esatto, un anno dopo. Riguardo al drone, e poi l'ha subito adottato anche Mancini, la macchina spara palloni era usata un po' di anni fa, adesso è tornata anche perché è stata perfezionata e serve per allenare ancora maggiore intensità ai portieri. Ecco, l'intensità degli allenamenti, l'intensità anche delle partitine. Sarri è proprio un insegnante di calcio, a differenza di Benitez o di altri allenatori che possono essere considerati dei professori universitari, lui è un maestro, è un docente, è uno che cerca di mettere sullo stesso livello i suoi giocatori, insegnando a tutti le stesse cose e insistendo su quelli che magari hanno meno applicazione o forse hanno anche meno perspicacia, proprio quelli che sono i suoi dettami. Ripeto, a me è piaciuto molto perché è una persona semplice, parla semplice, non è ancora contaminato dai veleni e dalle contraddizioni di questo mondo e secondo me può far bene. Certo, ha bisogno della fiducia della società e non è un caso che De Laurentiis l'abbia assistito fin dal primo giorno di ritiro. Anche perché l'ha scelto lui. Certo, sicuramente, e soprattutto ha bisogno di fare una buona partenza. Lui stesso candidamente, forse anche un po' ingenuamente, in conferenza stampa ha detto che le partenze in campionato non sono il suo forte, però qui dovrà sicuramente cambiare, almeno per quanto riguarda questo aspetto. Questo è sicuro, sono d'accordissimo, l'ho detto molte volte, ha un problema di tempo Sarri, perché adesso si sta costruendo insomma un certo credito, però è chiaro che essendo un debuttante a questi livelli di tempo per cominciare a vincere non ne avrà molto. Dammi 40 secondi, sentiamo il traffico e poi ti voglio portare un attimo Furio Fedele sul discorso Milan. Mertens non si tocca, io sono disposta veramente, gli accendo le basette a De Laurentiis, non ce lo deve toccare assolutamente. Tutti convocati. Tutti convocati. Furio Fedele, sfrutto la tua esperienza sul Milan. Witzel ha chiuso la porta, il suo agente ha chiuso la porta ai rossoneri. Romagnoli oggi ha giocato nella Roma e che non arretra di un millimetro dalla quotazione di 30 milioni. L'Equipe di oggi scrive che Ibrahimovic avrebbe fatto sapere che vuole fare un'ultima grande stagione al Paris Saint-Germain. Come si completerà questa squadra? È ancora difficile poterlo spiegare, anche perché il mercato spesso e volentieri ci regala emozioni proprio all'ultimo minuto. È stato abile ad esempio Galliani, vi ricordate, nell'estate 2010 a portare contemporaneamente Ibrahimovic e Robinho al Milan e entrambi hanno contribuito in maniera determinante alla conquista dello scudetto di Allegri. bisogna vedere anche come cambieranno le cose. È troppo presto per fare delle previsioni. Sicuramente un Milan in cantiere, sicuramente un Milan che ha bisogno di un difensore centrale molto forte. Io avrei fatto di tutto per strappare Hummels al Borussia Dortmund, un difensore anche di grande esperienza, di grande carisma. A centrocampo io a questo punto azzarderei Montolivo, regista davanti alla difesa. Il capitano rossonero ha esordito contro il Lione nella parte finale della partita, ma secondo me è ancora l'unico che ha il fosforo nei piedi e quindi potrebbe dare qualcosa di più all'azione del Milan. E in avanti dovrebbero essere sufficienti comunque Carlos e Luis Adriano, magari con Meneza trequartista anarchico, ma sicuramente in grado di giocate sempre strepitose come solo lui sa fare quando è in giornata. Una squadra così può valere quanto in termini di classifica? Deve valere almeno il terzo posto, altrimenti è buttato via un'altra stagione. Su questo non ci sono dubbi. Juve imprendibile per tutti. Sì, poi Juve è geniale, considerato il mercato che ha fatto. Non so se hai notato, sicuramente sì, che le tre grandi cessioni, Pirlo, Vidal e lo stesso Tevez, sono i tre giocatori che hanno fallito l'obiettivo della Champions proprio nella partita decisiva. Alla Juve sanno fare bene i loro calcoli e praticamente manca un ultimo anello per arrivare alla riconquista della grande coppa, e questi tre giocatori in un modo o nell'altro non sono stati più ritenuti abili e arruolabili. È veramente da capolavoro, da manuale del calcio, la cessione di Vidal. L'anno scorso non lo voleva quasi nessuno, comunque non valeva più di 15 milioni, adesso sono riusciti a venderlo oltre il doppio. Milan, Inter e molte altre squadre devono imparare sicuramente dalla Juve. Ma il problema è quello, Furio, il problema è quello, cioè devono anche vendere, e non è facile vendere, ce ne stiamo rendendo conto, anche perché con le rosa 25 è chiaro che chi sarebbe interessato a un giocatore tira la corda, perché sa che tu devi comunque sfoltire, no? E questo è un gap non da poco, secondo me, nelle logiche del mercato. Ma come si riesce la Juve, ci devono decidere gli altri, perché l'esempio di Vidal mi sembra assolutamente calzante. Soprattutto alla Juve non esiste la riconoscenza, non esiste nessun sentimento che non sia comunque già sufficientemente sostituito dai ricchissimi ingaggi e dai premi che prendono i calciatori. Bisogna essere lucidi, sicuramente spietati e cinici, alla Juve ci riescono. Infatti in Italia secondo me non c'è storia ancora, non solo per questo campionato ma ancora per un paio d'altri come me. Per questo non lo so, per gli altri vediamo. Grazie Furio, un abbraccio. Grazie. Ciao, Furio Fedele, Corriere dello Sport. A proposito, Claudio alla provincia di Milano, Giorgio alla provincia di Trento, 800240024, vi prego, venitemi a fare compagnia anche d'estate. Racconto questa storiolina che è carina di mercato, non riguarda quello italiano ma quello spagnolo, perché il Deportivo La Coruña, titolo della storia, mercato ai tempi dei social network. Il Deportivo La Coruña aveva preso un giocatore, Julio Rey, aveva già firmato il contratto, tutto a posto, tutto fatto, ma poi non ha completato il tesseramento dopo che sono cominciate a circolare certe parole scritte su Twitter dallo stesso Julio Rey. Paroline tipo puta depor, puta riasor, cose di questo tipo, scritte in altra data, 2012, forse anche prescritto, no? anche il tweet però non ne hanno voluto sapere. Contratto stracciato, Julio Rey torna a casa. Claudio, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'ospitalità. Grazie a lei. Mercato ai tempi del social network. Attenti ragazzi a cosa digitate sui vostri telefonini. Dica Claudio. Senta, prima parlava del Mourinho e del dopo Mourinho all'Inter. Sì. E diciamo, insomma, non un disastro, però difficile, insomma, difficile, di una ricostruzione difficile. Non è che per caso, è una mia ipotesi, non so cosa ne pensa. Nell'Inter, in quello spogliatoio, o tu hai un signor allenatore che tiene per i signori che toccano per le palle, se no non vanno. È più una questione, non psicologica, storica, culturale, sì. L'Inter ha questo problema. Non solo in quello spogliatoio, cioè Mourinho era il punto di riferimento di una società intera, cioè lui era quello che parlava, lui era quello che faceva le sue campagne, lui era l'uomo immagine, lui era l'allenatore della squadra, era il manager, era quello che per un certo periodo ha messo in ombra perfino Massimo Moratti, era il punto di riferimento. Proprio per quello che dico che quello era per l'Inter il momento di cambiare. È chiaro che le ricostruzioni sono sempre complicate, sono sempre lunghe e difficili, lo ha dimostrato la stessa Juventus, che adesso sembra faccia tutto perfettamente, ma non dimenticate, dopo che è stata smontata e risalita in Serie A, ha buttato un pozzo di milioni per comprare giocatori sbagliati, ha preso probabilmente allenatori sbagliati al momento sbagliato e ha avuto tante difficoltà per tornare dove è tornata. Quindi quando si chiude un ciclo ci vuole sempre una certa dose di pazienza, non si ricostruisce in un giorno, in una stagione e nemmeno in due, anche se si hanno i soldi. Giorgio, provincia di Trento, buongiorno. Ah, buongiorno a voi, siete grandi. Grazie. Grazie, dica. Niente, io telefono dalla provincia di Trento e niente, la regina, la provincia regina, perché ospita tante squadre. Sì. Io abito a Storo e in agosto ci sarà il ritiro del Palermo. Ah. Se volete vi faccio da inviato. Ok, va bene, volentieri. Come dirigente della società che ospita il Palermo potrei intervistare qualche giocatore o così, non so. Va bene, accettiamo la proposta così, d'amblè. Ci risentiamo quando arriva il Palermo. I nostri inviati scatenati. Tanto io voglio sapere, andiamo a fare un salto a Casa Capuano. Ciao Giovanni. Ciao Casa Carlo. Capuano. Ciao. Casa Capuano. E stai guardando l'Inter? Sto guardando l'Inter, appena finito il primo tempo. Cosa mi dici? Bah, intanto ti dico il risultato 0-0, però ti dico anche che si è giocato in 30 metri, quelli appena fuori l'area di rigore dell'Inter, che ha sofferto tantissimo. In parte era anche prevedibile, perché il Bayern ha un paio di settimane di vantaggio dal punto di vista della preparazione fisica e poi evidentemente ha un gioco rodato che oggi l'Inter non può avere. Quindi 0-0, ma il Bayern ha avuto tre grandissime occasioni con Lewandowski, Lahm e Müller per passare e chiudere in vantaggio questo primo tempo, e avrebbe fondamentalmente anche meritato di farlo. Però secondo me le indicazioni più interessanti sono altre. E allora ti dico che oggi c'era l'esordio di Mourinho, che è già stato sostituito, ha giocato i primi 40 minuti, poi è andato fuori credo per precauzione, perché ha sentito tirare il muscolo sul polpaccio. Però Mourinho è un giocatore solido, io gli do 6,5 per quei 40 minuti. Si è un po' perso Douglas Costa all'inizio del primo tempo sulla prima grande occasione, però poi è apparso molto forte fisicamente nel corpo a corpo con Lewandowski, che non è proprio un cuscello. Sì. E insomma dà la sensazione di essere un buon rinforzo, anche se dà la sensazione di non essere il difensore alfa della coppia di centrali, cioè di aver bisogno di giocare con uno più esperto e ancora più solido di lui, e poi andrà visto con Miranda. Sì. Non mi è piaciuto tantissimo in questo primo tempo con Doppia, 5,5 gli diamo, 5,5. Poco appariscente, a tratti un po' pesante, quasi sempre fuori dal gioco, anche se c'è da dire che in quella zona del campo il Bayern ha fatto girare molto il pallone con il tiki-taken. Vicino Kovacic e Brozovic. Brozovic si è dedicato quasi unicamente alla fase difensiva. Kovacic è stato l'unico con un paio di accelerazioni a riuscire ad innescare la coppia d'attacco, dove Icardi praticamente non si è visto, ma tutti gli alibi del mondo perché non sono arrivati i palloni, un po' meglio Palacio. Nulla di particolare su Montoya, che è l'altro grande debuttante di questa partita, di questa amichevole. L'Inter ha pagato tantissimo a sinistra Di Marco, che è un 97, viene schierato lì perché è l'unico mancino, ma è anche un segnale di Mancini che vuole dare a Duir, che tra l'altro è segnalato in tribuna, insomma, che serve fare mercato. L'Inter, lui vuole un esterno, ha perso Zucanovic, ha perso Filipe Luis. Però devo dirti che il primo tempo di Di Marco è stato davvero di estrema difficoltà contro Douglas Costa. Cioè Douglas Costa ha fatto quello che ha voluto, ha creato i presupposti quasi sempre lui per le occasioni del Bayern Monaco, ma evidentemente lì l'Inter dovrà fare qualcosa sul mercato, perché oggi... Quindi tu dici messaggio dal campo per messaggio dal campo, Di Marco non ha nessuna colpa. Ma è chiaro, ma gioca anche contro Bayern Monaco all'inizio della stagione. Gioca anche contro un giocatore Douglas Costa, che molti ricordano anche aver portato a spasso la difesa della Juventus in una partita di Champions. Sì. Quindi Di Marco è l'ultimo dei colpevoli, però un messaggio. Il primo tempo è stato da brividi. Certo. Sulla fascia sinistra. Grazie Gio, grazie Giovanni Capuano. Grazie Giovanni Capuano. Ci fermiamo per il GR. Abbiamo in linea Paolo da Verona. Lo prego di rimanere, lo richiameremo subito dopo il giornale radio e vi aspettiamo. 800 24 00 24. Abbiamo anche molte altre cose peraltro di cui parlare, eh? State con noi. Complimenti per la trasmissione, vi ascolto tutti i giorni, anche di notte. Tutti convocati. I nasi elettronici, il contaapi, i droni che sorvolano i campi. Ma anche la cottura in lavapiatto. O le fragole sospese. E internet fra i vigneti. E il pomodoro nero. Questo è Foodlab, il programma che vi racconta le tecnologie per il cibo del futuro. Federico Pedrocchi. Chiara Albicocco. Vi aspettiamo tutti i sabati alle 15 e domenica alle 7:10 del mattino, qui a Radio 24. Si ricomincia! Convocati. Andiamo insieme. 800 24 00 24 il numero verde. Allora, Berlusconi è arrivato a Milanello, vertice di mercato con Mihajlovic. Così si sente dire. Si sente anche dire che la gente di Salah sarebbe arrivata a Trigoria per parlare con Sabatini di Salah stesso, naturalmente. Del giocatore se ne parlava ieri. Dalla firma facile, perché avrebbe rilasciato un po' di autografi qua e là, magari uno anche all'Inter, eh? A lui va bene la Roma, gli va bene l'Inter, basta che lo paghino quanto chiede. Nessuno dei suddetti però ha l'accordo con il Chelsea. C'è Paolo da Verona, lo sentiamo subito? C'è Paolo? Sì, c'è. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Ho sentito prima quello che dicevate della Juventus, che è destinata a vincere per l'anno prossimo anche il futuro. Ma io non sono molto d'accordo. La Juve chiaramente ha approfittato di un periodo in cui gli altri non spendevano, loro avendo scazzato uno scudetto, quello che avevano rubato al Milan. Si sono trovati con dei soldi in tasca, hanno messo insieme la squadra e hanno vinto. Però quest'anno... Lei dice quello di Montari? Sì, esatto. Sì, ho capito. No, perché se non vincono con lo scudetto non gli arriva Tevez e via. Comunque, magari con sì, i sei con so. In mano si va da nessuna sì, parte. Bravo. Il fatto è che... mentre negli altri anni non si spendeva, quest'anno hanno speso o stanno spendendo un po' tutti, male, bene. Sì, però, per cui, però le ricordo Paolo che anche la Juventus aveva speso prima di quello scudetto cui lei fa riferimento tanti soldi. Sbagliando acquisti, non possiamo certo, fare un lungo certo, elenco da certo. Felipe Melo fino a Diego, aveva speso un sacco di soldi, non è che ne aveva spesi pochi. Ma questo è vero, però le altre negli ultimi tre anni non hanno speso quasi niente. Ha speso qualcosetta a Napoli, aveva speso qualcosetta alla Roma, ma poca roba. Sì. Adesso quest'anno si sono scatenati tutti. 20 milioni di qua, 30 milioni di là. Io spero che Berlusconi non vada a rompere le balle, che compri sto centrale, perché è inutile che continua a comprare attaccanti. Se non mette dentro un centrale non va da nessuna parte, no? Romagnoli? Sì, Romagnoli o qualcun altro deve mettere, cioè, io romperei la tessera di una vita da milanista, perché hanno confermato Mexes. Ma l'ha voluto lui, l'ha voluto Berlusconi. Appunto, perché appunto, ha detto è l'unico che tiene lo Squevos, è l'unico che ha le palle lì dietro, io lo rivoglio. Mihajlovic ha provato a dirgli: guardi che forse a me Mexes non serve poi tanto. Il giorno dopo Mexes va in sede e firma il contratto. Attaccare! Quindi Paolo, hai capito il vento, no? Sì, ho capito il vento, però ci dovrebbe essere reso conto perché senza una difesa come si... perché lui, quando vincevamo noi gli scudetti, le coppe dei campioni, continuava a pensare avanti a Van Basten, a Gullit, a Reik. Ma cazzo, avevamo un centrocampo, una difesa che non ce l'aveva nessuno, c'erano cinque palloni d'oro dietro, sì. Non Cannavaro. Ma non poi, Cannavaro, poi, è arrivato Nesta. Poi è arrivato Nesta. Voglio dire, lì c'era il muro di Berlino, c'era. Possibile che queste robe lui non se le ricorda? Se le ricorda. Poi è arrivato Nesta, poi è arrivato Stam. Insomma, il Milan in quegli anni aveva soldi, molti più di adesso, e aveva l'occhio davanti, dove lei sa come dicono in America, no? È l'attacco che fa vendere i biglietti e la difesa che fa vincere i campionati. Certo. Accanisce un effesso e nemmeno là. Fisicamente parlando, dicono che il driver per show, ma il padre per il denaro. Va bene. Paolo, porti pazienza. Beh, ma ci vuole pazienza, ci vuole pazienza. Con questi juventini ce ne vuole tanta. Ce ne vuole tanta, ma ce ne vuole tanta che per rifare una squadra. Il Milan è una squadra che va rifatta come dicono, un altro detto: il Duomo di Milano non è stato costruito in un giorno, ora il Colosseo non è stato costruito in un giorno, ma entrambi non sono stati costruiti in un giorno. Allora ragazzi, un paio di ritiri come facciamo tutti i giorni. Oggi vi porto innanzitutto a sentire dalle parti di quello del Carpi, per sentire il Bomber, da quella parte è un idolo, Kevin Lasagna. Tanto entusiasmo, divertimento tanto anche quello, la tensione adesso ancora stiamo vivendo, insomma la viviamo ancora poco, adesso quando inizieranno a venire fuori i calendari così si comincerà davvero a capire che annata sarà. Sì, abbiamo giocato, comunque erano test per darci minuti e sapevamo che era dura, però facciamo appunto per arrivare a competere poi in campionato. Questo idolo dei tifosi del Carpi, anche di Pardo per il via del cognome, Kevin Lasagna. Altro salto, un altro ritiro, quello del Genoa Marchese. Ci sono tante cose da dire, corsa del ritiro, la corsa è una di queste tante cose che facciamo, poi comunque il mister ci fa allenare sempre con la palla anche durante gli allenamenti, quindi questa è una cosa positiva. Poi il gruppo ci stiamo divertendo, oltre a faticare stiamo facendo delle bellissime giornate. Bene, adesso andiamo da un'altra parte, in un altro ritiro che non è calcistico. Ne abbiamo accennato ieri, ma voglio parlarne oggi. È un'Italia di stelle, sono venuti tutti, non avevo dubbi. Questo è il titolo del pezzo intervista che Luca Chiabotti scrive sulla Gazzetta dello Sport. Ciao Luca. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Strada verso un europeo di basket importantissimo. Io continuo a pensare, ormai ho i miei anni, che una nazionale forse così forte in potenza non l'ho mai vista, l'argento di Mosca, forse, fammi esagerare, nemmeno l'oro di Nantes. Beh, no, l'oro di Nantes magari sì. Però... No, senz'altro, guarda, sulla carta non ci manca proprio niente. Peccato che si gioca sul legno. Esatto, esattamente questo. Ci sono mille motivi per ritenerci una squadra potenzialmente fortissima questa volta, e altrettanti per farci pensare che fare l'equazione siamo forti quindi vinciamo la medaglia sia quantomeno cioè un po' eccessiva a questo punto della stagione. Si potrà dire soltanto se questa squadra in settembre, in quelle due settimane, riuscirà a raggiungere quella magica chimica che la porterà più avanti possibile. Adesso francamente dirlo, certo, se guardi i nomi, ci sono per la prima volta ci sono tutti, ed è la prima volta, sì. E tante volte, sai, però nelle squadre si va per sottrazione, no? Per cui continuo a pensare che non è per nulla banale, butto lì quattro nomi, far giocare assieme Belinelli, Gentile, Gallinari e Bargnani. Per le caratteristiche che hanno, farli giocare assieme è difficile. Poi dopo, se ci riescono, siamo strepitosi. Sì, io lascio da parte Datome, perché invece, pur essendo un giocatore di quel livello lì, invece è quello più pronto, secondo me, a svolgere un ruolo anche di gregarione di altissimo livello per la squadra, ma gli altri hanno bisogno della palla per giocare, quindi ce n'è una sola. Sì, non stiamo parlando di uno Star Game, stiamo parlando di un campionato europeo che è difficilissimo, cioè ormai con l'Europa sbriciolata, ma ci siamo abituati ormai da anni, il campionato europeo è una competizione pazzesca. Io mi domando chi invece prenderà la leadership di questa squadra, perché è inutile ricordare per chi ha più o meno la nostra età che ad esempio all'epoca di Nanta, se non c'era Marzorati c'era Caglieris, o Brunamonti, se non c'era Meneghin c'era Vecchiato, cioè c'era Sacchetti, c'erano questi che certo, comunque erano dei leader anche emotivi del gruppo. Io non riesco a trovare un leader emotivo in questo gruppo, almeno al momento. Io credo che l'unica strada sia una leadership collettiva, nel senso che questi ragazzi che hanno tutto questo talento devono veramente, come si dice, come dicono quelli che parlano bene, no? Guardarsi negli occhi e trovare una via comune per andare avanti e per essere assieme dei leader, che significa quasi sempre anche fare un passo indietro, non fare solo il tiro decisivo, se no sono guai, perché è chiaro che le personalità ci sono, ed è altrettanto chiaro che forse appunto giocatori come Datome, come questi hanno Cinciarini stesso, hanno uno spirito di gruppo. Poi di fronte a quelli che giocano nell'NBA, hanno vinto il titolo NBA, bisogna anche sapersi rapportare con queste personalità. Ripeto, il leader inteso come bei tempi, ad esempio nel 99 abbiamo avuto Myers e Andrea Meneghin, che certamente non erano due giocatori amici, non erano amici, ma che trovarono una chimica pazzesca proprio lì per vincere. Qui deve succedere qualcosa di simile. Bisogna che, anche se uno dice Gallo per Gallinari, per il tipo di persona che è e per il tipo di giocatore che è, potrebbe essere il leader di questa squadra, però il leader lo devono scegliere poi anche gli altri. Sì, certo. Non è che no, i leader li sceglie il gruppo. Sceglie il gruppo, non sceglie neanche l'allenatore. Certo, è una cosa che si crea in campo. Per quello che dico, che poi agli europei queste manifestazioni dove la fortuna conta tantissimo, dove un accoppiamento piuttosto che un altro conta tantissimo, dove giocare una partita come faremo noi, tre partite in tre giorni, ma sempre a meno di 24 ore, anche lì conta tantissimo. È evidente che soltanto è difficile fare dei pronostici tecnici, devi soltanto sperare appunto che questa squadra sia coesa e che capisca che sono in tanti, non possono giocare tutti bene, perché sennò andiamo a fare la finale con i Golden State Warriors l'anno prossimo, ma è sufficiente di cavalcare e di aiutare quei due giocatori che in quella partita ci stanno portando verso il successo. Non è per niente banale, lo so, non è una squadra molto petersoniana, che voleva cinque titolari e cinque ragazzini che non rompessero le scatole, qui basta guardare la foto che pubblicate oggi sulla Gazzetta con tutti i giocatori, mi diventa difficile trovarne qualcuno che abbia voglia di stare seduto 40 minuti, ti dico. No, nessuno, ma anche che entri in campo e rinunci a quello che può essere un suo tiro o un suo modo di giocare. Invece è fondamentale proprio per questo, del resto è la storia delle grandi squadre che vincono. Quelle che vincono sono o campioni che trovano questo modo di stare insieme, oppure squadre da una chimica particolare, anche due o tre nomi importanti trascinano però dei comprimari veri e definiti, che non rompano tanto le scatole ma lottino, difendano e diano un contributo collettivo. Devo dire che comunque finalmente abbiamo un europeo con tanta speranza e anche un po' di direi eccitazione per quello che questi ragazzi potranno fare. Non siamo più quelli alti 1,20 m o certo, che non hanno il fisico o che non hanno quelli che fanno canestro. Adesso abbiamo veramente tutto e sarebbe veramente un peccato non buttarlo. Forse è anche una forma di pressione che vogliamo mettere addosso a questa squadra. Adesso non ci sono più scuse, ci sono quelli dell'NBA, ci sono i migliori del campionato italiano, c'è Hackett, c'è Pianigiani, ci sono tutti. Se si fallisce stavolta, a quel punto trovare alibi sarà un po' complicato, caro Luca. Sì, Chiamotti. Vuol dire che questa generazione che ha per la prima volta l'Italia portata nella NBA è una cosa che è già successa ad altri paesi come la Serbia ad esempio, come la Jugoslavia, e noi per la prima generazione che portiamo nella NBA dietro non ci porta nulla, e questo è anche questa una cosa che è già successa, sì. Perché cominciano due mondi a non parlare più tra di loro, però nello stesso tempo poi altre squadre sono riuscite a superare in modo diverso questo gap. Speriamo noi di farcela, anche perché proprio anche come età anagrafica e come esperienza è il momento, siamo perfetto. Proprio all'apice, siamo è il momento perfetto. Ciao Luca, grazie. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao Luca Chiabotti. Da Luca Chiabotti della Gazzetta dello Sport a un CT, quello del ciclismo. Ciao Davide Cassani, che piacere. Ciao Davide. Ciao, come stai? Molto bene, grazie. Molto bene, molto impegnato. A seguire questo Tour de France, che ti sta dicendo cosa? Mi sta dicendo che è il migliore, che mi stanno a 3 minuti difficilmente quasi di aria, non è impossibile, e che è invalido di poter dire e lì mi stava a posizione, anche perché è stato fortunato. Non è stato fino a questo punto un campo, anche perché il mio piazzamento è stato un quinto posto in una tappa di Daniel Ors. Sì. Davide, proviamo a richiamarti, che la comunicazione non è perfetta, lo facciamo tra un secondo e mezzo, perché stiamo sentendo il CT del nostro ciclismo Davide Cassani. Intanto voglio farvi ascoltare, e ci tengo, un paio di audio che Giorgio De Luca mi ha preparato. Due gol strani, il primo arriva dall'Argentina, Boca Quilmes, Calleri segna con forse il colpo più spettacolare che c'è nel calcio, la rabona. Palacio tiene a Caleri para el gol. Palacio se la da y Caleri se va para el gol. Tevez no. Caleri. Cantalo y de Rabona. Sí, Diego de Rabona. Se la quisiste dar a Carlitos o no, y como la pelota te quedó, le diste con la rabona, sí, ahí está. Dunque non l'ha passata Tevez, come avete sentito, che debuttava con il Bayern Monaco, ma sono bollito dal caldo, con il Boca Junior, ma ha segnato con una rabona. Tornato Davide Cassani? No, ma c'è Pier Augusto Stagi? Sì, eccolo là. Ciao Pier. Ciao Carlo. Come va? Buon pomeriggio a tutti. Sono qua con la conferenza stampa con Vincenzo Nibali, che sta parlando con la stampa italiana. Che faccia? Rilassata, mi sembra anche convinto di poter fare un buon finale di tour, molto rinfrancato dalla prestazione di ieri, dove è riuscito a trovare questo guizzo, questo colpo d'ala, questa invenzione. Aspetta che mi allontano, perché se no disturbo, dopo magari mi avvicino e cerco di rubarti una battuta, chiedo ai colleghi se posso fare una battuta con Vincenzo in diretta. Fai tutto quello che devi fare. Però lui, diciamo che adesso, ieri era un po' preoccupato per il raffreddore, però questa mattina si è svegliato molto meglio, quindi è regredito. Ho parlato anche col dottore Emilio Magni, che è il medico della Stana, ha detto certo ci volete 4 giorni per una forma quanto pare leggera, quindi non dovrebbe compromettere più di quel tanto, anche perché qui c'è tanta caldo, quindi si faccia fatica a respirare in condizioni normali, e se poi hai anche il naso chiuso, respirare solo con la bocca, come dicono loro, si respira con la bocca, ma bisogna tentare di farlo il più tardi possibile, quando veramente si è sotto sforzo e sforzo si va tutta. Io stavo sentendo l'opinione di Davide Cassani, che credo sia tornato con noi. Davide? Eccomi. Eccolo qui. No, c'è Stagica alla conferenza stampa di Nibali. Ci sta dicendo. Guarda, dimmi. L'ho visto due secondi fa perché anch'io sono qua. Quindi siete praticamente. curioso, siete a un tiro di cellulare uno dall'altro. Ma infatti, no? Guarda, ti posso dire che mi sono accorto che c'è Piero Gusto dalla telefonata perché non l'avevo ancora incrociato. Hai visto, potenti mezzi di Radio 24. Sì. No, mi stavi dicendo Davide, di... passa di qui che ti offro un caffè. Grazie mille Pier. posso venire anch'io. Vieni Carlo, vieni. Ok, allora vengo anch'io, parto da Milano in bici tra 5 minuti. No, volevo sapere da GT, oltre a, cioè, Nibali, tu hai parlato di sfortuna, Davide. Ieri io ne ho parlato Ne ho parlato con Ivan Basso, sì, chiedendogli come leggeva il tour di Nibali. Anche secondo me è stato un tour in parte sfortunato, perché è arrivato preparato, è arrivato pronto a questo Tour de France. D'altra parte bisogna sottolineare che il risultato sportivo non è solo arrivare a Parigi con la maglia gialla, ma è arrivare dopo una maglia gialla con una classifica degna di chi è stato re l'anno prima. Sai, la pressione che ti mette il Tour non ha uguali, soprattutto se sei il vincitore, se parti con il numero uno. Quest'anno Vincenzo più o meno ha avuto un approccio simile, nel senso che ha avuto difficoltà nella prima parte, ha vinto il campionato italiano e si è presentato in buone condizioni qui al Tour dopo aver fatto un giro del Delfinato così. Poi l'anno scorso tutto filo liscio, nessun problema, quest'anno invece è andato bene nella crona iniziale, poi è stato sfortunato, tra l'altro è pure caduto. E sai, alla fine sono quelle piccole cose che possono influire. Perdi un minuto e mezzo in pianura, comincia il nervosismo, la pressione dei giornalisti, la pressione della squadra, mettiamoci anche quella. Alla fine, sai, tutto parte dal cervello, tutto parte dalla testa, no? Non è solamente muscoli, cioè non servono solamente le gambe e i muscoli per vincere una corsa in bicicletta. E quindi tutti questi fattori hanno influito e adesso ci ritroviamo con un Vincenzo Nibali che paradossalmente, carico da tensioni perché comunque fuori classifica questo turno non può vincere, lo abbiamo improvvisamente ritrovato in ottime condizioni, perché ieri ha guadagnato 26 secondi, però se una settimana fa si staccava da 20 corridori, ieri è scattato nella faccia il corridore di classifica. Sì. Piero Augusto, vuoi dire qualcosa? Sì, perché c'avevo Vincenzo che era disposto a fare una battuta. Chiedo una cortesia. Intanto ti avvicino il microfono alla bocca di Vincenzo. Rispondi sì. Pure. No, com'era la domanda? No, vabbè, sicuramente noi abbiamo cercato anche di ripetere più o meno stessi tipi di allenamenti anche nelle ultime settimane prima del Tour. Chiaro, in allenamenti riesci a fare un numero diverso rispetto alla corsa, perché in corsa hai una motivazione in più, sei più determinato, magari hai tutti dei fattori, magari un po' di adrenalina addosso, e quindi riesci a fare un'accelerazione maggiore. È chiaro che un corridore come Froome, molto alto, riesce a fare un'accelerazione da seduto, per lui è migliore, sì, con quella frequenza. Se magari un corridore fisiologicamente molto simile riesce anche a farlo, quindi sicuramente si può riuscire a riprodurlo, perché no? Però poi magari ci sono corridori che si trovano come Alberto Contador, lo fa invece in un modo diverso, mette giù un rapporto in più e lo fa sui pedali, quindi e magari riesce a sviluppare la stessa forza, ecco. Vincenzo, da 1 a 10 quante probabilità ti dai per arrivare sul podio? Ma il podio è molto lontano, però non è impossibile. Bisogna trovare l'occasione giusta, anche un po' di fortuna e che la corsa si metta in un certo modo per cercare di raggiungere il podio. Però vediamo in questa prossima settimana, ci sono tante salite e si può provare magari un attacco anche da lontano. Questo era Vincenzo Nibali in diretta con Piero Augusto Stagi, che ringrazio tanto. Davide Cassani, 30 secondi, dammi un commento su queste parole. Ma sai, un Nibali mi sembra che Sì, abbastanza bene dei muscoli, ma anche nel morale. Non ha dato per chiuso il discorso podio. E questo è confortante, perché vuol dire che comunque ha ancora la speranza, anche se pur minima, di arrivare terzo, perché i primi due secondo me sono irraggiungibili. Adesso è ottavo, secondo me può arrivare in quinta posizione, e se qualcuno salta può ancora arrivare sul podio, quindi speriamo soprattutto in una vittoria di tappa, perché certo, per me è molto importante questo. Assolutamente, grazie CT, a presto. Grazie a voi, Davide Cassani, ciao. Buon caffè a te, a Pier Augusto Stagi. Grazie anche a tutti voi che ci avete ascoltato, ci sentiamo domani. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, ciao. Grazie di tutti, di tutto, e una buona estate a tutti.